בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Eh sì, edizione live speciale di Blue Time. Buonasera da Mirko Cavallin, bentrovati. Palinsesto che sta cambiando, ve ne sarete accorti in queste serate. Questa è un'altra serata particolare per salutare e riascoltare insieme gli amici del Vicariato di Spresiano la settima rassegna corale Cori d'Accordo. Già l'anno scorso l'avevamo proposta, era all'inizio di novembre, ormai siamo alla fine del mese di novembre. Il Vicariato di Spresiano da ormai 7 anni propone questa rassegna. Sabato scorso si è svolto l'appuntamento nella chiesa parrocchiale di Catena. Grande partecipazione perché i cori erano numerosi, circa 150 e più tra bambini e adulti, ma poi c'erano tutti i familiari, parrocchiani, eccetera, eccetera. Una serata molto ricca di voci, molto bella, che riproponiamo per chi era presente e proponiamo per la prima volta per chi non fosse stato sabato scorso nella chiesa di Catena di Villorba. La serata condotta dalla collega amica Elena Mattiuzzo iniziava in questo modo. Live Blue Time. Blue Time Live. Maserada che si esibiranno insieme a prendere posto sul palco. Intanto facciamo un po' una presentazione. Settima rassegna cori d'accordo del Vicariato di Spresiano. Devo essere sincera, sono contenta di essere qua. Michela già un altro paio di volte mi aveva chiesto e per altri impegni non ero mai riuscita, però sono davvero felice di essere qua un po' per presentare questa bella iniziativa di collaborazione, di amicizia, di condivisione, un po' perché mi fanno respirare un clima che era da un po' che non respiravo, il clima che è quello della fraternità vicariale, che insomma è stato un ambiente che ho frequentato molto anni fa, poi per varie cose insomma uno fa anche altro, e quindi sono davvero felice e anche un po' emozionata di vedere tanti giovani, tanti bambini insieme ad altre generazioni condividere questa serata. Che cos'è? È una rassegna di 8 cori, sono 8 i cori che si esibiranno questa sera, tutti del vicariato di Spresiano, che da alcuni anni collaborano non solo per questo concerto e questa serata, ma anche poi in altri momenti dell'anno, per condividere celebrazioni, piuttosto che scambiare opinioni, piuttosto che copiare anche canti che vengono fatti, impararne di nuovi, condividerli. E credo che sia una cosa molto molto molto bella e molto preziosa, non tenere per se stessi un'esperienza di servizio che è come quella dei cori parrocchiali, che animano di solito le celebrazioni della parrocchia, le celebrazioni eucaristiche, ma mettere appunto in comune, mettere d'accordo con gli altri quello che magari si è imparato, il percorso che si è già maturato. Vi vedo abbastanza pronti, maglietta arancione e maglietta nera, giusto? Bello poi perché ogni coro ha un colore che lo contraddistingue. E allora cominciamo anzitutto con presentare questi due cori. Comincerei dal coro di Maserada, non perché è la mia parrocchia, ma insomma perché è l'ordine, quindi è andata così, non è, faccio campanilismo, ci mancherebbe. Il coro Nove Notte della parrocchia di Maserada svolge la sua attività appunto di animazione liturgica ormai dal febbraio del 2009. È un coro formato circa da 35 componenti, con l'allegra presenza di molti bambini, l'impegno costante di giovani e di adulti, anima soprattutto la messa domenicale ogni settimana, proponendo di volta in volta brani in sintonia con i momenti dell'anno liturgico e con gli eventi della parrocchia, ma non solo, poi insomma hanno anche cantato matrimoni, altre cose. E spieghiamo un po' il nome. Nel nome Nove Notte si celano tre messaggi. 9 come 2009, l'anno appunto di inizio dell'attività di questo coro, 9 come nuove, le nuove note, i nuovi canti, le nuove melodie che hanno portato in parrocchia e che stanno insegnando anche i parrocchiani, questo è molto bello. 9 come nove note, perché è vero che le note sono 7, ma loro aggiungono altre due note, ovvero la fede e l'entusiasmo. Senza queste caratteristiche non avrebbe senso il loro servizio. Non sono, come tutti gli altri, dei professionisti, ma hanno scelto di dedicarsi appunto a questo servizio, e non fanno esclusivamente concerti o esibizioni. Desiderano solo che il piacere di accompagnare le celebrazioni con il canto sia un dono per la comunità, e con semplicità e con molta costanza portano avanti questo impegno. Coro Nove Note. Ci sta un applauso, sì. Soprattutto perché io giro pagina così. E invece veniamo al coro di Visnadello. Il gruppo Canto Giovani Voci Controcorrente di Visnadello è invece un po' più maturo, un po' più grande, nasce nel 2000 con lo scopo di animare la messa della domenica in uno spirito di gioia e di festa. Da molti anni la loro presenza è costante durante la messa del sabato sera, durante tutto l'anno liturgico e naturalmente anche a Natale e a Pasqua. Con i loro canti guidano l'assemblea, accompagnano i fedeli in un clima di preghiera e di ascolto. E nel corso degli anni hanno cantato matrimoni, veglie di preghiera vicariali, le prime comunioni e le cresime. Me le ricordo anch'io le veglie, c'ero ancora all'epoca, 14 anni fa. Partecipano alla rassegna Cori d'Accordo sin dall'inizio e attualmente il gruppo è composto da circa 25 elementi, tra cui 20 coristi, 4 musicisti, chitarre, flauto traverso e percussioni, e poi il direttore. Non ho detto chi sono i due direttori, Michela Gallina, scusate, no, facciamo l'applauso al coro di Visnadello. Un po' di parco esercizio. Dirige il coro di Nove Notte di Maserada Michela Gallina, invece il direttore del coro di Visnadello è Alessandra Conte. E detto questo, cominciamo. Io ringrazierei anche la parrocchia che ci ospita, la parrocchia di Catena. E cominciamo con i primi due brani che voi ci proponete. Il primo brano è Voi siete di Dio, tratto dalla raccolta Verbum Panis di Balduzzi. Il testo di questo canto riprende uno stralcio della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, che ricorda che il mondo è stato creato per la gloria di Dio, ma non per aumentare la sua beatitudine o perfezione, quanto perché possiamo manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. alla tastiera Alberto Bellio, alle chitarre Luigi Bergamo e Giovanni Conte, al flauto traverso Marco Bettiol, alle percussioni Giacomo Ceconato e Andrea Dalbello, Voi siete di Dio dirige Michela Gallina. Prendere tutto l'applauso, eh? Il secondo brano che invece i cori di Maserata e di Visnadello ci propongono è Il mio spirito in festa, sempre di Mite Balduzzi, come quello che abbiamo appena ascoltato. È un canto che riprende il testo del Magnificat, cantico di ringraziamento e di gioia che Maria pronuncia rispondendo al saluto della cugina Elisabetta al momento del loro incontro, una naturalmente che tutti conosciamo. Maria con questo inno ci parla di Dio e si fa catechista di Dio, ci educa al senso di Dio e si fa nostra voce nel lodare Dio. E tutto ciò ci fa sentire Dio presente nella nostra storia. Ascoltiamo quindi le parole di Maria in questo canto, alla tastiera Alberto Bellio, insomma li citiamo perché ci sono anche dei musicisti, non solo i coristi, alle chitarre Luigi Bergamo e Giovanni Conte, al flauto traverso Marco Bettiol, alle percussioni Giacomo Ceconato e Andrea Dalbello. Questa volta dirige il coro Alessandra Conte e allora ci ascoltiamo Il mio spirito in festa. Come al pensiero. quindi al coro Nove Note di Maserata sul Piave, al coro Voci Controcorrente di Visnadello. Grazie anche per il servizio che costantemente date alle vostre parrocchie e alle vostre comunità. Mentre loro lasciano il palco, lo chiamiamo così questa sera, si avvicina un altro colore. Dopo l'arancio e il nero si avvicina il verde, e il verde è il colore che contraddistingue il coro di Lovadina. Bravissimo, come siete ordinati, siete proprio disciplinati, bravi. Il coro gruppo musica della parrocchia di Lovadina nasce nel 1993, quindi ha ben 24 anni. No, 20, perché 24? Portate pazienza, è fine settimana anche per me. 20 anni, so che ragionamento ho fatto, vabbè, 20 anni, quindi anche loro me li ricordo abbastanza bene, quando facevamo insomma le veglie, facevamo i convegni, i congressini, le feste della pace insieme, quindi con grande piacere che alcuni di loro li ritrovo, altri sono giustamente nuovi, nel senso che magari in 20 anni si sono un po' succeduti. Sì, accogliamoli, accogliamoli. Di Lovadina nasce quindi nel 93 dalla passione di un gruppo di giovani per il canto e per la musica, uniti alla voglia di animare e di vivacizzare con i brani musicali le celebrazioni eucaristiche. Nel corso degli anni il gruppo si modifica, naturalmente, cresce, assume caratteristiche differenti, fino a giungere a settembre del 2012, quando sotto la guida del nuovo direttore, Daniele Carrer, assume la composizione attuale di circa 20-25 elementi, giovani e adulti, che offrono un servizio alla comunità. Il gruppo accompagna le celebrazioni con un repertorio giovanile e tradizionale, accompagnato da diversi strumenti, tra cui tastiera, chitarra, violini, in alcuni casi anche le percussioni. Il gruppo musica, oltre alla liturgia domenicale, prende parte e si impegna anche ad altri eventi, come le veglie di preghiera, i matrimoni, concerti anche in altre parrocchie, e naturalmente partecipa alla rassegna Cori d'Accordo. Alcune esperienze molto significative per la crescita del gruppo sono state l'ideazione e la realizzazione del concerto Notte di Pace, con l'esecuzione di brani di musica leggera uniti a danze e poesie sul tema della pace, e la partecipazione ad alcuni musical come San Francesco e San Martino, ispirati alla vita di questi due santi. Direttore, siete pronti? Bene, e allora andiamo. Allora, questa sera il gruppo, che si esibisce da solo, come avete visto, presenta due brani tratti dal nuovo repertorio classico. Andiamo con il primo, che è l'Ave Verum, composto da Mozart tra il 17 e il 18 luglio del 1791. È un motetto per coro, orchestra e organo scritto per la solennità del Corpus Domini e dedicato dallo stesso Mozart all'amico Anton Stoll, nei pressi di Vienna, in un paese nei pressi di Vienna. Il testo è un inno liturgico del XIV secolo e quindi ce lo ascoltiamo anche con particolare attenzione e con particolare concentrazione. Alla tastiera Luana Schievene, alle percussioni Luigi Cattarin, e allora il direttore Daniele Carrer, e ascoltiamo il primo brano. Thank you. complimenti anche per la difficoltà dell'esecuzione e complimenti anche al Moneschievere che mi ha accompagnato. Dopo l'Aveverum Corpus di Mozart passiamo ad un altro brano, il Tantum Ergo, composto questa volta da Don Lorenzo Perosi nel 1898. Il testo è preso dalle ultime due strofe del Pangelingua, un inno liturgico attribuito a San Tommaso d'Aquino, scritto su richiesta di Papa Urbano IV per la solennità del Corpus Domini e indicato per il momento della benedizione eucaristica. Quindi anche questo richiede particolare attenzione e concentrazione per la solennità. Questa volta senza strumenti, confermate, ci sono le percussioni. Adesso ci sono le percussioni. E allora è Luigi Cattarin, corretto. Il direttore è sempre Daniele Carrer e allora ascoltiamo Tantum Ergo. C'è un po' di tempo per lo spostamento, chiamerei il coro Voci di Fontane, il coro Giovanissimi e il coro Giovani Dentro di Breda di Piave ad accomodarsi, a sistemarsi, a prendere posto. Volevo ringraziarli per la generosità, perché credo che tutti i servizi, naturalmente per servire una parrocchia, una comunità, richiedano tempo, energie e impegno, però chi canta nei cori deve trovarsi spesso una o due volte alla settimana a fare le prove, a imparare i canti, ad allenarsi, esercitarsi e poi costantemente accompagna le liturgie, quindi è un impegno non indifferente, quindi grazie per la generosità che avete, che dimostrate, per il tempo prezioso che regalate alle vostre comunità e per questo credo meritino tutti un applauso, poi glielo rifacciamo, insomma. Qua, ben arrivati, forza! Senza paura. Coro Voci di Fontane. Il coro Voci di Fontane nasce nel 1998, giunge alla formazione attuale dopo alcuni avvicendamenti dovuti a, insomma, il ricambio generazionale che ci sta un po' in tutti i cori come in tutti i gruppi. Per questo motivo attraversa anche un periodo non certo ricco di elementi, ma indispensabile a creare un deciso e convinto gruppo di cantori, sempre spinti dal servizio per l'animazione liturgica e dalla passione per il canto. Pochi ma buoni, si dice di solito, quindi tranquilli e avanti sempre. In particolare il coro si impegna nell'accompagnare la Santa Messa delle 11, oltre che l'animazione delle principali festività, spesso in collaborazione anche con l'altro coro parrocchiale. L'obiettivo è anche però quello di un coinvolgimento di nuovi giovani della parrocchia, proponendo quindi, grazie alla partecipazione a rassegne corali come questa, una nuova scelta di canti che concilia allo stesso tempo la tradizione e l'innovazione. E credo che avere una platea di fronte così dia un po' di entusiasmo, no? Anche per trovare qualche nuovo elemento, e questo va benissimo. E questo era il coro Voci di Fontane. Passiamo invece al coro Giovanissimi e al coro Giovani Dentro di Preda di Piave. Il coro Giovani Dentro mi piace molto come nome. Il coro Giovanissimi nasce ufficialmente nel gennaio del 2000 e anche questo nasce per animare la Santa Messa, un po' come tutti gli altri. Il gruppo ha cominciato con pochi partecipanti e poi piano piano è cresciuto fino ad arrivare ad attualmente il numero di circa 40 ragazzi, quindi bravissimi davvero, ragazzi e bambini che ricoprono un po' tutte le età, dalle scuole elementari fino all'università. Oltre all'impegno domenicale, il coro Giovanissimi ha partecipato nel corso degli anni a diversi progetti in collaborazione anche con l'amministrazione comunale e a molte iniziative proposte nell'ambito della pastorale giovanile della parrocchia. Il coro è diretto da Sara Schiavinato, mentre il coro Voci di Fontane era diretto da Simone Rottin, ma insomma adesso abbiamo modo anche di introdurli. Il coro Giovani Dentro invece muove i primi passi qualche anno fa, nel 2008, perché ha capito che forse anche persone che avevano un'età un po' più adulta, ma alle quali piacesse molto cantare, potevano trovare il tempo tra gli impegni di lavoro, di famiglia, catechismo e molte altre cose per provare a rendere questo semplice servizio a qualche celebrazione nell'Avvento, nella Quaresima o il sabato sera. Con il tempo il coro si è arricchito di persone e questa sera quindi ecco che c'è qualche papà e figlia insieme che canta in questo bel gruppo, e questo credo sia anche un bel segnale, insomma, così, di non solo di fraternità tra coristi, ma anche all'interno delle stesse famiglie. E allora a questi tre cori, perché sono ben tre, facciamo intanto questo applauso iniziale. Sono tratti dalla raccolta di una ultima pubblicazione del Rinnovamento nello Spirito, dal titolo Il canto del tuo popolo. Il popolo di Dio in cammino nella Chiesa e nel mondo celebra Dio con il suo canto d'amore in atteggiamento di gioia e di speranza. Fratello Enzo Bianchi scrive: il cristianesimo è un'offerta, non è un'imposizione, e non pretende di avere il monopolio della felicità, ma afferma che la si trova nella vita di secondo Cristo. Entrambi i brani quindi sono ispirati alla Sacra Scrittura, frutto e dono di composizioni dei giovani autori di Rinnovamento nello Spirito. Il primo brano che andiamo ad ascoltare è Benedetto Signore, cerco solo te. Prende spunto dal Libro dei Salmi, che al Salmo 72 recita: Benedetto il Signore Dio di Israele e benedetto il suo nome glorioso per sempre. È un canto gioioso, allegro, che ben spiega il senso della gioia cristiana. Non è ingenuo, anzi, è ottimistico, certo, ma è realista. La fede in Gesù Cristo ci consegna le chiavi per affrontare e superare le prove della vita. Ci sarà una voce solista, che è quella di Vanna Gallina, corretto, dico bene. Alle chitarre Andrea Zampieri, Luca Coane e Davide Dorigati. Alle tastiere Moreno Sala, al basso Angelo Alfonsi e alla batteria Andrea De Vidi. Dirige Sara Schiavinato. Ascoltiamo Benedetto Signore. Yeah. energia come sempre sa dare il rinnovamento dello spirito, è proprio la loro caratteristica questa, benedetto Signore, ben rappresentava questa gioia e questo entusiasmo. Il prossimo brano che ci propongono i cori di Breda e di Fontane invece è un canto un po' più intimo, più raccolto, è un'invocazione a Dio che con il suo tenero abbraccio ci sostiene e ci guida. Tratto dal libro del Deuteronomio, che recita il capitolo 33, rifugio è il Dio dei tempi antichi e quaggiù sono le sue braccia eterne. Abbracciami è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, dirige sempre la maestra, mi piace chiamarmi così, insomma, no? Sì, la trovo, sarà schiavinato, portate pazienza, l'età anche per me. E invece questa volta avremo un'altra voce solista, che è la voce di Anna Fontana. E allora ascoltiamo Abbracciami. Thank you. cori di Fontane in azzurro e di Breda, i due cori di Breda in fucsia invece. Grazie ancora, accomodatevi di nuovo. E passiamo a un'altra esibizione, questa volta un altro coro che si esibisce da solo, mentre alcuni hanno scelto di esibirsi insieme, ed è il coro di Spresiano, che vedo già prepararsi, che adesso arriverà con il colore rosso. Bello perché ogni coro appunto ha un colore e poi quando ci sarà la sorpresa finale, già la conoscete perché se non è la prima volta che venite alla rassegna Cori d'Accordo sapete che poi c'è una sorpresona finale, quindi l'effetto scenico è molto molto bello. Grazie, voi siete i giovani dentro. Allora, il coro di Spresiano, mentre si preparano, tra poco li vedremo e arrivano, è un coro storico. Anche in questo caso ho dei ricordi molto belli. È un coro che nasce nell'87 e quindi ha un po' di anni ed era nato per iniziativa di un gruppo di giovani dell'Azione Cattolica degli Scout di Spresiano e dell'allora seminarista Don Adriano Fardin. E quindi questi ragazzi, insieme a questo sacerdote, a questo seminarista all'epoca, avevano deciso che era arrivato il momento di creare questo coro. E in questi 26 anni molti ragazzi, giovani e adulti hanno portato il loro gratuito contributo all'attività del coro, che attualmente è composto da circa una ventina di elementi. Eccoli, madonna che sincronizzati che siamo, visto? Li accogliamo con applausi. Anche questo coro svolge da sempre il suo servizio di animazione alla messa domenicale delle 9, quindi voi siete mattinieri, bravissimi, per offrire un servizio alla comunità con i canti che vengono scelti di volta in volta e che siano naturalmente coerenti e vicini alla parola della liturgia. Viene fornito anche un sostegno ai gruppi parrocchiali e al catechismo nelle principali tappe e alcuni coristi si alternano per insegnare ai ragazzi i canti durante i pomeriggi di catechesi. In diverse occasioni il gruppo ha animato anche liturgie nuziali, incontri e veglie di preghiera anche fuori parrocchia, anche nel vicariato. Insomma, ricordo bene, anche qua vedo dei volti amici che rincontro con grande piacere. Se siete pronti, cominciamo, va bene? Il primo brano che ci propongono, Del tuo spirito, Signore, del Gen Rosso e Gen Verde. Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. Il Salmo esprime la gioia di chi contempla la creazione e ne trae motivo di lode, riconoscendo in essa una delle manifestazioni di Dio. In tutte le creature il Signore ha infuso il suo spirito che le tiene in vita. Lo spirito crea la vita e la rinnova, rendendo bella la terra e tutto ciò che in essa esiste. Tutto ciò diventa segno della potenza e della tenerezza di Dio. Alla tastiera c'è Silvia Cappellazzo, dirige Lucia Somero, sapevo che sarebbe stato Somero, va bene? E allora ascoltiamo Del tuo spirito, Signore. Thank you. Passiamo al secondo brano che ci propone il coro di Spresiano, Lode al nome tuo, anche in questo caso del rinnovamento nello spirito. Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. Questo canto è una lode al Signore, anche nella tristezza, così come nella gioia, possiamo lodare Dio, colui che è più forte di ogni nostra debolezza umana. Qualche minuto perché si sistemino, credo, ma fate con calma, non preoccupatevi. Dicevo prima che avete bisogno di qualche minuto, vero? Sì, perfetto, allora chiacchierò io. Oppure qualcuno di voi ha voglia di dire qualcosa? No, facce terrorizzate, paura, eh? Va bene, allora passo a caso tra il pubblico. Sto scherzando. No, dicevo che vedo qualche volto amico e insomma un po' ti fa sentire vecchia quando vedi i bambini che animavi nelle veglie vicariali e crescere e diventare donne e uomini. Un po' però è bello perché è un po' il segno che il tempo passa, ma che alcuni valori, alcune cose belle condivise negli anni rimangono, come queste, come quella di cantare, come quella di stare insieme, come quella di scaldarci un po' il cuore insieme. E ricordo che anche nei momenti vicariali il canto e le danze, i balli, i bounce erano sempre momenti molto molto piacevoli. Vedo dei bambini piccoli qua davanti che magari ancora oggi lo fanno, e ricordo anche che a divertirsi di più erano proprio gli animatori, quindi quegli adulti che in realtà si divertivano più dei piccoli. Comunque, detto questo, anche per dare un senso a questa serata, che non è solo il fatto di ritrovarsi qui di anno in anno a proporre dei canti magari nuovi, preparati per tempo, belli, perfezionati, ma è proprio il fatto di fare comunità, in questo caso 8 parrocchie, perché sono 8 i cori e 8 le rispettive parrocchie, hanno gremito una chiesa per passare qualche ora di fraternità insieme. Credo che questo sia qualcosa che ci portiamo a casa tutti quanti stasera, io per prima, che da un po' effettivamente queste cose non le vivevo da vicino così, e quindi vi ringrazio. Ci siete? Sono stata bravissima. Allora, lode al nome tuo, rinnovamento nello spirito. Il canto ve l'abbiamo già presentato, alle chitarre Chiara Di Pietro, alla chitarra acustica, alla chitarra elettrica Michele Somero, ho imparato, alla tastiera Silvia Cappellazzo, alla batteria Davide Carraro, al basso Angelo Alfonsi, dirige sempre Lucia Somero, lode al nome tuo. Oh, God. bravi, bravi, grazie. Grazie al coro di Spresiano, coro rosso, che riprende posizione tra gli altri amici, mentre si avvicinano gli altri due cori, che sono gli ultimi due cori che si esibiranno questa sera prima dell'esibizione conclusiva a sorpresa. Li vedo partire, avvicinarsi. Bene, hanno i colori avorio e il colore rosa questa volta. Avorio, bianco. Bene, tra pochissimo li vedremo sbucare, intanto ve li presento. Sono il coro di Catena con il colore avorio. Il coro giovani di Catena è nato più di 25 anni fa, quindi anche questo è un coro con una bella esperienza. Negli anni si sono succeduti sia i componenti del coro sia gli strumentisti, ma rimanendo invariata la voglia di cantare insieme naturalmente. In questi anni c'è stata anche l'occasione di partecipare a diverse rassegne corali giovanili e di organizzare alcuni concerti con scopo benefico. Attualmente il coro è composto da circa 15 elementi, accompagnati alla tastiera da Giancarlo Ferrara, le chitarre da Luca Romanello, Anna Bianchin e Gloria Sozza, la direttrice e coordinatrice Sabina Buosi. In occasioni particolari possono contare anche sull'aiuto di Nicola Vendramin e Marco Pelliconi. Certo che è lungo il tragitto da lì a sbucare qua e dopo vado a vedere che percorso è. Va bene, adesso aspettiamo che sbuchino per fare un piccolo applauso al coro di Catena. Ma forse ci stanno facendo uno scherzo. Ah no, non state facendo uno scherzo. Peccato che è arrivato l'altro coro prima, va bene. Uguale, ben arrivati. E allora, visto che sono arrivati loro, no, eccoli, sono insieme, sono divisi per voci. Coro Avorio è il coro di Catena, del quale volevo dire anche un'altra cosa, così intanto arrivano. Nel 2011 e 2012, insieme ai cori di Villorba, Fontana e Lancinigo, hanno eseguito la Missa Brevis di Jacob de Haan per coro a quattro voci e banda, e hanno eseguito questo particolare pezzo nelle chiese di Fontana, Villorba e San Donà di Piave, quindi complimenti. Adesso possiamo fare l'applauso al coro di Catena che è arrivato, eh? In rosa invece il coretto di Varago. Il coretto di Varago nasce circa 8 anni fa in occasione della preparazione di una messa di prima comunione, per ravvivare che in questo caso la celebrazione alcuni genitori insegnano qualche canto con la chitarra ai bambini. Poi, con l'entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di più strutturato per la propria comunità, gli stessi genitori e qualche musicista si impegnano nel consolidare questa esperienza che ormai ha 8 anni. Nei primi anni vengono animate le celebrazioni, naturalmente nei momenti liturgici forti, le comunioni, le cresime, poi via via l'impegno è cresciuto fino ad arrivare a una presenza domenicale. Voci bianche di bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, voci adulte, chitarre, tastiera, sono ciò che compongono questo coretto, insieme alla voglia e all'entusiasmo naturalmente di cantare insieme. Alle chitarre questa sera ci sono Massimo Barbone e Gabriele Collin, e al violino c'è Nicolsa Palma. Siete molto collaborativi, grazie, potevo girare pagina. Allora, siamo i due brani che ci propongono i cori di Varago e di Catena. Il primo, Alleluia, lode cosmica, è un inno di lode al Signore da tutto il creato. Cantano infatti a Dio le terre, i cieli, i mari, cantano gli angeli, cantano i giovani, le fanciulle e i vecchi. È un invito anche a tutti noi a unirci a questa lode con le nostre voci per esprimere con il canto la grandezza del suo nome. Mi pare giusto, se no che bello è, dai, no, fanno l'altro prima. Allora facciamo, invochiamo la tua presenza, ok? Che è un canto invece che manifesta il desiderio di sentire la presenza dello Spirito Santo tra di noi, perché questo possa donarci pace e umiltà, forza e fedeltà, e per sentirci pronti ad aprire i nostri cuori, pronti ad accogliere il Signore. Dirige Nicola Vendramin, che allora lo invitiamo a raggiungere il posto da direttore. Ben arrivato Nicola. Ascoltiamo i cori di Varago e Catena in Invochiamo la tua presenza. ringrazio per questo brano molto bello, devo dire. Ora invece ascoltiamo, come annunciato prima, Alleluia, Lode Cosmica, questo inno, anche in questo caso con l'invito ad unirvi, se non alleluia, se vi va, o solo ascoltare, per esprimere con il canto la grandezza del nome del Signore. Dirige questa volta Roberta Bisetto, ascoltiamo Alleluia, Lode Cosmica. Rimanere questa volta invece, eravate preparati, quindi Catena e Varago rimangono e invito con calma, ma non troppo, però con ordine, perché ho visto che siete molto disciplinati, tutti gli altri cori, gli altri 6 cori, a raggiungerci per il momento finale, questo regalo che ci fanno di questi 2 brani interpretati insieme da queste 8, anzi 9, perché Preda ne aveva 2, corali. Non so quanti siete in tutto, ma insomma, forse 160, 150 coristi almeno, più o meno. Bello, molto bello. Prima che andiate via vi contiamo uno a uno. Naturalmente arcobaleno o bandiera della pace, come preferiamo interpretare, i vostri colori qui messi insieme. Entrambi i brani che ci proporranno i cori d'accordo, quindi queste 9 corali, sono di ispirazione biblica e appartengono anche in questo caso alla raccolta Il canto del tuo popolo, di Rinnovamento nello spirito, che abbiamo sentito in alcuni brani anche in precedenza, e riprendono stralci delle sacre scritture. E allora questo è un po' il regalo finale. Il primo brano è Gesù, roccia di salvezza, ci ricorda il Salmo 62, solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, Lui solo è mia roccia e mia salvezza. È un canto gioioso che rinnova la nostra fiducia nel Signore, nei progetti che Lui ha su di noi, nella potenza della Sua parola di salvezza. Dirige Alessandra Conte, cantano Cori d'Accordo. Thank you. fronte ha diretto Gesù, roccia di salvezza, cori d'accordo, ma anche i musicisti d'accordo, naturalmente. Non vi cito tutti perché ci sono anche tutti i musicisti che si sono musicalmente mescolati per queste due esibizioni conclusive. Passiamo al secondo e ultimo brano, con il quale quindi ci salutate e ci salutiamo, Il canto del tuo popolo. Riprende invece il libro della Genesi, che dice: con voce di lode offrirò a te un sacrificio, con gioia ed esultanza il nostro canto salga al Signore, per lodarlo ancora una volta in quanto Verbo eterno, Re, Salvatore e Pastore che con fedeltà ci ama in eterno. Dirige Siara Schiavinato, cantano a cori d'accordo Il canto del tuo popolo. Thank you. allora, poco fa mi hanno chiesto se ero contento di avere la chiesa così piena, se non l'avevo mai vista così piena. Da questa parte sì, è da questa parte di qua che non l'avevo mai vista così piena, per cui complimenti questa sera, perché siete in tanti, non ho mai avuto un coro qui in chiesa così forte, così numeroso. È stata una cosa bellissima, stupefacente. Allora, a nome dei parroci, perché già chi ha presentato questa sera ha usato bellissime parole nei vostri confronti, adesso a nome dei preti, a nome di noi parroci delle vostre parrocchie e anche delle altre parrocchie che non hanno magari i cori che hanno partecipato con voi, comunque a nome nostro, a voi il nostro più vivo grazie per la disponibilità che date. Ho sentito prima, c'è la frequenza settimanale, il sabato, ogni domenica, tutte le feste, alcune occasioni, eccetera. La disponibilità che date per rendere gioiosa, bella, partecipata la liturgia. E dico una cosa, la dico con la mia sensibilità, si sente quando non ci siete. Vero? Vero? Da parte mia, da parte di noi parroci, grazie, grazie di vero cuore per il tempo che date alle prove con gli strumentisti, per coordinarvi, per decidere, per impostare magari tutti quei periodi dove ci sono comunioni, cresime, Pasqua, e arriva il parroco e ti domanda, domenica c'è questo, c'è quest'altro, dai, fate lo sforzo, eccetera, eccetera, e dovete fare lo sforzo perché altrimenti non si va più fuori. È una cosa però necessaria e rende più partecipata anche la liturgia. Dopo io spero sempre, come c'è qui davanti un gruppetto di piccoli, ci sono di dietro quelli un po' più in là negli anni, però qui davanti ci sono i più piccoli e loro sono il ricambio generazionale nei vari cori giovani delle parrocchie, per cui mi auguro che anche gli altri piccoli che magari sono qui in chiesa un po' alla volta si facciano coraggio e si uniscano a voi. E hanno bisogno però di qualcuno più grande che li aiuta ad entrare e fa spazio anche per loro, per cui il cammino continua con le nuove generazioni, perché i cori non siano solo, come scritto, cori giovani dentro ma anche fuori, vero? Un applauso a voi e grazie. Grazie Don Marco, grazie. Allora, siamo quasi... Adesso so che premete per andare giù, ma ci diamo qualche altro minuto, proprio due o tre minuti. Io vorrei intanto tutti i direttori dei cori, delle corali, qua davanti, perché c'è un piccolo presente per voi. Era difficile farlo per tutti quanti, abbiamo scelto di farlo ai direttori, va bene? Non vi offendete voi, vero? Benissimo. E allora Michela Gallina, Alessandra Conte, Daniele Carrer, Sara Schiavinato, Lucia Somero, Nicola Vendramini, Roberta Bisetto, venite pure qua, davanti. Forza, non siate timidi, timide, soprattutto donne. Bello, arriva qualcosa, sono sicura che arriva qualcosa. Tanto lì, esatto, bravo. Vedo che ormai avete imparato, bravo. Grazie a questi direttori, coordinatori che si prendono a cuore tutte le voci dei coristi. Ecco un fiore per voi, portato dalle nostre vallette. Grazie direttori, avete fatto la foto diritto? Sì, ti rubo il microfono un attimo. Naturalmente vogliamo ringraziare Elena. Grazie a voi. Un applauso anche per lei, per tutta la sua voce. E un fiorellino piccolo c'è anche per lei. Grazie, grazie a voi, davvero è stato emozionante. E allora, insomma, ci lasciamo con un bis, cosa dite? Non potete dire di no. E allora riascoltiamo. Sara è al suo posto, ci lasciamo con questo brano, grazie ai cori d'accordo, grazie a tutti voi davvero per le emozioni che ci avete regalato. Buonanotte. Thank you. Blue Time Live. E allora, con gli applausi finali per tutta la rassegna corale Cori d'Accordo, il vicariato di Spresiano, sabato scorso 16 di novembre alla chiesa parrocchiale di Catena di Villorba, ringraziamo, lo ha già fatto Elena prima di me, che ha presentato la serata sabato scorso. Saluto particolarmente Isabella Polo, punto di riferimento per questa rassegna, e contiamo di esserci, che ci sia la rassegna e che ci sia spazio su Blu Radio Veneto anche per il 2014, quindi in qualche modo ci prenotiamo e lanciamo l'idea anche ad altri vicariati, ad altri cori parrocchiali, perché no, e di organizzare una serata come questa che vi abbiamo riproposto, oppure anche di proporla, perché no, su Blu Radio Veneto. Sono tanti che si stanno facendo avanti, musicisti, cantanti, iniziative dalle nostre parrocchie. Blu Radio Veneto è a servizio della comunità diocesana, delle comunità diocesane di Venezia, Padova e Treviso, di tutte le parrocchie, di tutti i vicariati. Quindi benvenga, contattateci tramite il nostro sito bluradioveneto.it. La serata prosegue ovviamente come sempre in musica sulle nostre frequenze. Da Mirko Cavallin a tutti l'augurio di una buona serata e buon ascolto con Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live.